Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Allora, quando non c'è niente da fare, bisogna andare nei musei. I musei sono luoghi eccezionali, si trovano sempre opere d'arte e storie bellissime. Consiglio di fare un giro al Palazzo Barberini di Roma, alla sede della Galleria Nazionale di Arte Antica, che è famosa in tutta la città e anche in tutto il mondo perché ospita uno dei quadri più enigmatici di Raffaello Sanzio, la cosiddetta Fornarina. Si tratta di ritratto di una donna a tre quarti di figura che è completamente nuda e tiene naturalmente una mano al seno e una mano copre il pube. Chi è questo personaggio? Come mai Raffaello realizzò un quadro così? Beh, naturalmente noi sappiamo che Raffaello amava molto le donne e che viveva con una compagna. Quando morì Raffaello fu costretto a cacciare di casa questa compagna, ma le lasciò le doti per vivere in modo onorato. Quando morì si trovò questo quadro in bottega e quindi da lì è cominciata tutta una ricerca per cercare di capire chi fosse. Le fonti antiche l'avevano già detto, dicono una mezza Venere, cioè noi sappiamo dalle fonti antiche che Raffaello aveva raffigurato un tipo di Venere, la Venere pudica, ma la fantasia degli storici dell'arte hanno trasformato questa Venere nella Fornarina, appunto il titolo tradizionale di questo quadro. La Fornarina è un titolo che compare per la prima volta nel 1772 sotto un'incisione e indica esattamente la professione, cioè la prostituta. Fornarina vuol dire prostituta. La cosa incredibile è che pensarono invece che questa fornarina fosse la figlia di un fornaio e quindi si misero alla ricerca dell'identità di questa donna e attraverso una serie di concatenazioni un po' libere per la verità stabilirono che era Margherita Luti, figlia di un fornaio di Siena. Ora questa tradizione è rimasta solida, ma nessuno più ci crede. C'è uno studioso che ha capito che si tratta invece, come le fonti antiche riportavano, di una raffigurazione allegorica di Venere. Quindi non è la Fornarina, ma la Venere di Raffaello.